al sussurro e il destino. Simone Pizzi guida il cammino con occhi da matto senza confini. Un viaggio di parole, un incontro genuino, nel cuore della vita, nel suo intimo, rincorrersi. Ah, belli de casa, benvenuti come sempre ogni venerdì alle ore 7 qui su runtimeradio.it, anche se questa mattina vi chiedo scusa perché ho fatto qualche minuto di ritardo in quanto era sparito il gatto, e quando spariscono i gatti dentro un'emittente radiofonica pirata come la nostra ovviamente tutto si ferma, perché i gatti sono più importanti della trasmissione radiofonica stessa. Buongiorno a tutti, vi ricordo che per interagire con noi basta andare su telegram.me/dirette runtime oppure trovate qualche altro sistema, insomma una volta c'eravamo anche il numero telefonico ma non, insomma adesso è un po' più complicato. Dunque questa mattina facciamo la seconda parte della puntata che abbiamo fatto Vic 20 e altri aneddoti, oggi è 3DO e altri aneddoti, e cercheremo insomma di raccontare altre storie che riguardano ovviamente il mio percorso di vita con quella che è un po' la tecnologia. E questa seconda parte è anche abbastanza se diciamo che la prima parte era un po' più commovente, diciamo, da un certo punto di vista, perché sicuramente riaccendeva i ricordi in tanti, partendo ovviamente dagli anni 70 fino insomma a tempi più recenti, invece in questo episodio ovviamente sono cose più interessanti da un certo punto di vista, perché comunque riguardano una rivoluzione importante dal punto di vista computeristico e anche tecnologico. Allora, le canzoni che metteremo oggi sono del tutto casuali, quindi spero insomma che siano decenti, non ho avuto veramente il tempo di preparare una playlist, però insomma gli aneddoti ci stanno. Intanto vi ricordo che questa mattina alle ore 7 è uscito Snap Architettura Imperfetta tra i nostri podcast, quindi cercate su Spreaker Runtime Radio e troverete tutti quanti i nostri podcast, mentre il film dell'orrore come tutti i venerdì mattina c'è sempre quando ovviamente io sto in diretta. E buon ascolto, ci ascoltiamo fra qualche secondo. Dopo ovviamente il panico che c'è stato, giustamente io non mi ero accorto che c'era un problema, pensavo che era stato risolto, e quindi vabbè, comunque facendo un po' un recap con quello che abbiamo detto la volta scorsa, siamo partiti dall'Atari 2006 che c'aveva ovviamente quel difetto probabilmente elettrico, non so di che tipo, che praticamente lo sprite, tutti gli sprite di tutti i giochi del Player One a un certo punto diventava la metà. Il difetto, cioè ovviamente lo storico oramai racconto del bambino urlante che scappa dalla gioia quando ha visto la scatola del VIC-20 regalata a Natale. Il Commodore 64 c'era quel difetto col chip, con tanto di incidente stradale, insomma, quindi faccio proprio un recap proprio così al volo. E poi l'Amiga, no? L'era dell'Amiga, che per me è nata in uno scantinato, in uno di quegli scantinati dove praticamente c'erano questi tizi super nerd che avevano queste stanze, questi sottoscala diciamo bui, dove era pieno di scatoloni tra monitor e computer, e lui stesso che ovviamente testava computer, duplicava dischetti o cose del genere, che era una cosa già assolutamente avveniristica. E c'aveva proprio il sapore di quegli anni 70 lì, cioè nel senso di quel periodo incredibile, sì, di quegli anni 70 lì, di quegli anni 90 lì, che insomma c'aveva comunque quel sapore incredibile di un'epoca completamente andata, no? Cioè nel senso che questi facevano importazioni dei computer, li sistemavano, li vendevano, tutto completamente fuori dalla grazia anche della regolarità, no? Perché tu comunque compravi sti computer, non è che qualcuno ci pagava le tasse, ti lasciava lo scontrino, non so neanche addirittura, cioè mi ricordo che c'era il discorso delle garanzie ufficiali, no? Che se tu spedivi a Commodore la garanzia, quella valeva come garanzia e via dicendo. Però insomma oggi funziona tutto molto diversamente, no? Però comunque quello era il mondo, quello era l'ambiente, è stato divertente averlo vissuto, e così come è stato divertente aver vissuto soprattutto in una città come Roma alcune particolarità, tipo ad esempio questi i negozi, vabbè, durante il periodo della pirateria, quando ovviamente non c'era una legge sul copyright del software, quindi dentro i negozi era abbastanza normale vendere i dischetti, insomma, copiati dei videogiochi che potevano essere dell'Amiga, come potevano essere le cassette del Commodore 64, anzi addirittura il Commodore 64, le cassette e i giochi venivano piratati, tradotti in italiano e cambiati di titolo, ovviamente, perché era legale, assolutamente una cosa regolare da quel punto di vista. E tutto questo ci ha permesso anche di vivere proprio quella transizione importante, che è stata quella del momento in cui è uscita una legge sulla protezione del diritto d'autore del software in Italia, che è stata una cosa importante, perché non solo c'è stata la legge, ma c'è stato anche un forte intervento dal punto di vista della Guardia di Finanza, delle forze dell'ordine, affinché questa legge non fosse considerata una delle tante leggi che stavano lì, ma fosse immediatamente applicata. E questo portò a una mannaia molto pesante nei confronti di tante persone, no? Di tanti professionisti, di tanti commercianti, che ovviamente sono visti da un giorno all'altro dover cambiare completamente approccio e dover cambiare facendo con decine di milioni di lire di multa, perché veramente ci sono andati veramente giù pesante. Tant'è che io, ovviamente, c'era questo negozio Pulsar vicino a Via Magna Grecia a Roma, dove andavo praticamente a rifornirmi di dischetti, che un giorno sono andato lì e gli ho detto: ah, c'è Indiana Jones The Fate of Atlantis, così, una cosa, perché io ovviamente fan Lucas e delle avventure grafiche, e lui dice sì ce l'ho, e mi torna con la scatola, 140.000 lire, ragazzi, costavano i giochi, e io sono rimasto un po' così, tipo uno shock culturale, non solo economico. E infatti ci rimasi abbastanza un po' così, però lui mi guardò un po' sorridendo, volendo dire, volendo non dire, sembrava che eravamo nell'Unione Sovietica degli anni 70, perché non mi voleva dire, cioè nel senso, dice: scusa, ma non ci sono, ma non c'è i dischetti, no, Poi insomma, parlando un pochino, poi ovviamente c'avevo confidenza, stavo spesso dentro questo negozio di videogiochi, lui mi dice: no, guarda, che a me mi hanno mezzo messo sull'astrico, insomma, è vero che prima avevano guadagnato sbafo senza tasse vendendo i dischetti e le cassette piratate, però è vero pure che poi quando sono tornati alla carica e gli hanno menato veramente ai negozi, insomma. Mi piacerebbe in una puntata dell'archeologia informatica parlare di questa transizione, perché è stato un momento epocale. Noi ne abbiamo parlato spesso, no? Di questa cosa dei diritti d'autore, di quanto probabilmente la pirateria legalizzata in Italia abbia anche condizionato la mancanza di uno sviluppo dell'industria del videogioco in Italia, però è stato comunque anche un fenomeno culturale importante, quindi c'è stata proprio una transizione veramente importante da quel punto di vista, che ha cambiato molto velocemente e però allo stesso tempo anche a fatica la nostra abitudine, il nostro modo di fare. Tant'è che ovviamente la pirateria è uscita dai negozi ufficialmente, ma si è aperta una sua strada da un certo punto di vista, che non era solo quella della distribuzione dei tipi di colore magari per strada, o i posti, i mezzi nascosti dove andavi a prendere Twilight, le collezioni con dentro i CD-ROM pieni di roba dentro e via dicendo, ma c'era a Ottaviano, a Roma, alla fermata della metro d'Ottaviano, c'era una cosa che ricorderò sempre in una maniera incredibile, con grande affetto da un certo punto di vista, anche se poi non è affetto per la persona in sé, no, ma proprio per il ricordo, che c'era praticamente questo ennesimo sottoscala dove c'era sta signora anziana, incredibile ragazzi, proprio io se ci penso oggi me... oggi non, ma non solo non sarebbe possibile per tante ragioni, ma sarebbe proprio possibile anche perché quel senso di adattarsi a fare le cose, secondo me, che ci avevano gli italiani in un certo periodo, oggi non c'è più. Oggi si è un po' distrutto un certo tipo di approccio culturale, anche nel bene, perché comunque è anche giusto che sia un po' così. Dall'altra parte è un po' triste. Comunque c'era questa signora anziana che faceva le copie dei dischetti del PC e c'aveva sti floppy drive in linea praticamente, e lei a manetta si metteva lì trick track trick track trick track, e tu gli dicevi: che c'hai Monkey Island 2? Sì, scartabellava e ti dava Monkey Island 2. Se non ce l'aveva pronto, cosa abbastanza probabile a un certo punto, te lo preparava lì per lì, proprio perché te lo faceva proprio lì per lì, forse per non avere che ne so, un archivio dei giochi che magari si arrivava qualcuno con un controllo via dicendo, gli trovavano i dischetti copiati, e invece no, lei stava lì, la roba era tutta pulita, i giochi pirati stavano direttamente nel computer, e lei ovviamente faceva sto trick track con questa agilità, ecco, diciamo, da un certo punto di vista, se non addirittura abilità. Ed è stato divertente, perché situazioni del genere ne abbiamo incontrate tante appunto negli anni 90, e tutto sommato fanno veramente parte di un'epoca che io non guardo con nostalgia, perché difficilmente guardo con nostalgia, ma sicuramente col piacere di ricordarle. Questi sono i Vampire con Moloch, che dura ancora un po', e quindi cominciamo a riparlarci sopra, dato che comunque questa è una trasmissione di aneddoti, di racconti, che è quello che riguarda ovviamente quel tipo di mondo. Un'altra storia che non so se ho raccontato la scorsa puntata, perché avrei dovuto riascoltarmela ma non ho avuto tempo, questa è stata una settimana un po' così, è stata quella dell'era del multimediale, no? Del multimedia kit. Per me il multimedia kit, il primo multimedia kit, è stato qualcosa di veramente incredibile, e mi ricordo quando andai a fare il preventivo per questo 3DO, sì, per questo 386, scusate, per questo PC 386, con la scheda audio, la scheda grafica VGA, ah che figo, c'è la scheda VGA 256 colori. Per noi veniamo dal mondo Amiga, era il futuro, era la fantascienza praticamente. E praticamente, insomma, tipo 1.200.000 lire questo 3DO. E furono esattamente i soldi che mi portò mio padre dalla banca, quando gli ho detto: guarda papà, ho comprato il computer, un computer professionale. Solite storie che si raccontavano ai padri. Ero già grandicello, ma ci avrò avuto 17 anni, non mi ricordo, insomma, comunque 18 anni. Bisognerebbe vedere quando era il periodo di 386, insomma, per riuscire, però non ho una memoria precisa di quanti anni avevo. E praticamente questo mi fece sto preventivo, diceva: va bene, ok, col monitor, il mouse, la tastiera. Allora bisognava contemplare tutto, insomma, perché tutto aveva un costo da un certo punto di vista, no? Quindi ecco, comprai questo 386, che non vedevo l'ora ovviamente di avere questo computer a casa per giocare ai giochi più belli, più fighi. Poi successivamente è arrivato internet e via dicendo. Ma pure sul discorso della nostra evoluzione sulle telecomunicazioni informatiche, poi magari ne faremo proprio una puntata così, ma molto più in là. E comunque praticamente io andai a questo negozio, mio padre mi aveva già dato tutti quanti i soldi, io lasciai il negozio solo un acconto, magari 300-400 mila lire, adesso non ricordo, e poi accompagnavo un mio amico in un altro negozio perché lui doveva cambiare un pezzo, un qualcosa, adesso non ricordo bene cosa. E praticamente questo negozio Scusate, dovevo starlo dire. Stamattina di tutto praticamente sta succedendo. Dentro questo negozio, grande, negozio di elettronica, tipo fate conto, Melchioni, da una parte su uno scaffale, sopra uno scaffale, c'era Sound Blaster Multimedia Kit. Una cosa incredibile. Intanto saluto Samuel che giustamente si ricorda più o meno di come funzionavano le cose allora. 11 dischetti Monkey Island 2 ce ne voleva un'ora, sì, non so se erano 7 o 11 dischetti, però sì, era comunque tanta roba, perché si era passato dalla grafica bitmap, insomma, disegnata ai sfondi digitalizzati, tante animazioni in più. Comunque, questo Sound Blaster Multimedia Kit, io mi ricordo ancora la scatola, che era bianca con questo fascio iridescente, no? Tutta la sfumatura dei colori, no? Che passavano in un punto, poi si allargavano, c'era questa cosa, il CD, capito? Cioè, che cos'era il Sound Blaster Multimedia Kit? Il Sound Blaster Multimedia Kit non era nient'altro che una scheda Sound Blaster Pro con un lettore CD-ROM dentro, cioè nel senso dentro la scatola ovviamente. Quindi c'è, dentro la scatola c'era la Sound Blaster, che potenzialmente poteva non servirmi, vabbè, era una Sound Blaster Pro, però insomma, capito, era mica cazzi, e questo lettore CD-ROM. E il lettore CD-ROM io oramai già leggevo nelle riviste, l'era del multimedia, il multimediale, i suoni, grafica, parlato, tutta roba incredibile, di cui stiamo parlando anche nella trasmissione, cioè negli speciali che stiamo facendo con Pixel Deb sul suo canale YouTube. Anzi, andate su YouTube, cercate Pixel Deb, iscrivetevi, attivate la campanella, guardate i video, mettete like, condividete, aiutare il canale ovviamente a crescere. Naturalmente questo lo fate per lei, perché è brava, si impegna tanto, e soprattutto perché ci fa piacere darle una mano. E questo multimedia Sound Blaster Multimedia Kit costava 800.000 lire, cioè praticamente costava quasi come tutto quanto il computer che io ho comprato. E voleva il caso che io avevo tutti i soldi che mi aveva dato mio padre, e io gli ho detto: io lo voglio. L'amico mio mi fa, dice: ma che sei matto? Dice: guarda che dopo come fai? Dopo, questa è una cosa che ha caratterizzato nel male la mia vita, cioè tipo dopo vedemo, cioè in qualche cosa mi invento. Era proprio una cosa che praticamente ha caratterizzato tantissimo la mia esistenza. E praticamente mi comprai sto Sound Blaster Multimedia Kit. Tant'è che quando poi io, insomma, il giorno dopo, non ci sono andato subito, il giorno dopo sono tornato al negozio che mi stava a montare il computer, gli ho detto: guarda, che mi puoi montare dentro questo? Dice: ma scusa, questo lo potevi prendere da noi, l'avremmo ordinato noi. Dice: no, ma guarda, io giustamente, dice: guarda, veramente io te l'ho portato perché me l'hanno regalato, io non so neanche che cos'è. E questo giustamente si è messo a montare ovviamente, però mo c'era il problema che io non c'avevo i soldi per pagare sto computer, perché io ho lasciato solo 200-300 euro, 400 euro adesso non ricordo quanto gli avevo lasciato. E praticamente e praticamente andai da mio padre dicendogli che mi ero sbagliato, che purtroppo c'erano altri 800 euro da pagare, perché ho dovuto espandere un pezzo, che altrimenti non sarebbe stato il computer non sarebbe stato lo stesso. Mio padre si incazzò: ah, ma tu che pensi? Però mio padre era così all'epoca, insomma, mio padre veniva dal boom economico, no? Quindi erano quelle persone che in qualche maniera si erano arricchite, un po' per le sue capacità, un po' perché comunque il periodo economico che avevamo attraversato era quello, insomma, no? Quello che, dove sembrava che eravamo molto più ricchi di quanto in realtà lo fossimo. E alla fine il giorno dopo venne con queste 800.000 lire mancanti, e io comprai e finalmente riuscii a portare a casa questo computer, che mi ha dato tante soddisfazioni per poco tempo, perché era il periodo in cui uscivano i giochi della Origin. Se ve lo ricordate, ogni volta che usciva un gioco nuovo della Origin dovevi cambiare praticamente il processore. Yeah. The Golden City of Samira, gli Hallas, oh, roba importante tra metal e progressive, sta roba, gagliardo. Comunque, l'era del multimediale è stata un momento veramente importante, una grande rivoluzione, una delle tante grandi rivoluzioni che ci sono state nel mondo dell'informatica e del mondo videoludico, perché c'erano sti CD-ROM che arrivavano pieni zeppi di full motion video, di parlato, le versioni talkie dei giochi, vi ricordate, insomma, no? Quindi tutti i giochi che già erano usciti venivano riproposti con una grafica leggermente migliorata, ma soprattutto con un aspetto audio migliorato, ovviamente con le tracce dei dischi o con le musiche digitalizzate, e soprattutto il talking, cioè tutta la parte comunque del parlato che si inseriva all'interno del gioco. Mi ricordo c'era un negozio a Roma, si chiamava Per Gioco, che c'aveva sti cataloghi che tutte portavi a casa praticamente, lo ristampavano. Scusate per la tosse oggi, ragazzi, ma niente, stamattina è così. E praticamente tu ti riportavi a casa, io scartabellando a un certo punto ho letto Monkey Island 1, cioè il primo Monkey Island, The Secret of Monkey Island, Tolki Ita, capirai? Cioè tu mi dici Monkey Island, Tolki Ita, io sono andato subito là e me lo so comprato, anche se c'avevo la sensazione, insomma, che c'era qualcosa che non andava. E poi era multilingua, cioè nel senso era italiano, spagnolo, inglese, francese o tedesco, adesso lo ricordo. In realtà il gioco mi stupì moltissimo, perché era figo, perché tu praticamente inserivi il gioco partiva, e invece di esserci la classica traccia MIDI c'era la traccia CD, quindi musica che tu non avevi mai sentito nei videogiochi con quella qualità. Oh, madonna che figo, il multimediale, il CD-ROM, il potere, il laser, tutte queste cose qua. E ci rimasi un po' male, però, quando in realtà in italiano era solo il testo e il talkie era in inglese. Poi dopo sono arrivati anche i doppiaggi in italiano, ma quello fa parte di tutta un'altra storia. Comunque, l'era del multimediale ci ha dato tante soddisfazioni, full motion video a un quarto di schermo, insomma tutta una serie di cose che tu esploravi e che per chi come noi veniva dai cubettoni giganteschi dell'Atari 2006 e del computer senza sprite come il VIC-20, insomma era tanta roba, no? Quindi insomma ci stava, diciamo, da un certo punto di vista, vedere quelle cose che oggi ci fanno un po' ridere, tu le guardi e ti fanno un po' sorridere. Però appunto, come ho già raccontato, io sono stato quello che si è comprato il CD-TV, tanto per capirci, quello di Commodore, che CD-TV e Amiga CD32 sono stati le macchine che hanno distrutto, no? Da un certo punto di vista hanno contribuito alla distruzione di Commodore per quello che conoscevamo noi. E praticamente a un certo punto, questo insomma è abbastanza storia, c'era questa leggendaria macchina che poi anticipò la PlayStation di qualche tempo, e insomma probabilmente diciamo fu avveniristica e anticipò i tempi, ma soprattutto veniva proposta con un modello diciamo visionario da un certo punto di vista a livello commerciale. Infatti secondo me questa sua visione anticapitalistica da un certo punto di vista è stato un po' il suo fallimento, che è stato il 3DO. 3DO era questo consorzio, diciamo, che si era messo su per costruire questa tecnologia, questa console, che doveva essere una console ma doveva essere, e forse è stata insieme al CD-TV è stata la prima macchina concepita per essere una sorta di elettrodomestico di intrattenimento, no? Perché poteva essere anche qualcosa di più, in quanto ovviamente avendoci il lettore CD e avendoci l'opportunità nello slot di mettere un'espansione MPEG, praticamente ti permetteva anche di vedere i video CD, insomma di renderlo un qualcosa di più di una semplice console. Però era una console che allora, quando uscì, ci sbragò proprio. Cioè io mi ricordo che c'era questo, sempre il negozio Pulsar, quello dove andavo, quello lì a via Magna Grecia, il tizio che aveva preso la botta della pirateria, insomma, che aveva pagato tanto di multa, che mi ricordo a un certo punto c'aveva sullo scaffale c'aveva sti 4-5 giochi del 3DO. Io ho detto, ma tu la console ce l'hai? No, e in effetti la console non era facile trovarla. Io la comprai per importazione parallela, sapevo che costava 800.000 lire. Non avevo capito come funzionava sta cosa dell'importazione parallela. C'era un negozio a via Santa Maria Ausiliatrice a Roma che praticamente comprava tutte queste console dal Giappone e le smerciava in tutta Italia praticamente. Però ovviamente tu le dovevi ordinare, loro le ordinavano, quando gli arrivavano poi te le rispedivano, ovviamente con un ricarico insomma importante, senza essere ovviamente un'importazione ufficiale, no? E vabbè, sto 3DO se ne parlava tantissimo, cioè, io mi ricordo lui c'era il gioco di FIFA che io lo guardavo perché se ne parlava, avevamo visto le immagini, visto le foto, gli articoli su The Game Machine, su K, e insomma eravamo tutti presi da sta cazzarola di macchina che non solo c'era il CD, il multimedia, ma era anche il 3D, c'era il 3D insomma. E questo FIFA in particolare, il primo FIFA in... il primo gioco ovviamente di calcio in 3D che noi sbavavamo, cioè solo l'idea, e fu incredibile come esperienza, perché vabbè, a parte che io chiesi 800 euro a mio padre, il giorno dopo era arrivato con 800.000 lire, scusate, il giorno dopo era tornato con sti soldi perché lui faceva così. E io andai a questo negozio e c'erano tutti sti scatoloni, dico, ma che ci avete il 3DO? Dice, guarda, sono questi qua, guarda quanti ce ne stanno. Dice, ma io allora non posso comprare? Dice, no, ma questi non si possono comprare perché sono tutti destinati ovviamente a quelli che l'hanno già comprato, l'hanno già pagato. Dice, guarda, questo va a Caltanissetta, questo va a Como e via dicendo, insomma. E io poi quando, cioè, non mi rendevo, cioè nel senso, io quando volevo una cosa, non c'erano santi da sto punto di vista. E allora gli faccio, guarda, io ho queste 800.000 lire, mannaggia, ma non puoi fare qualcosa? E questo, che ne so, forse un po' ingolosito, no, dal fatto che c'erano sti sordi che magari la sera si sarebbe andato a mignotte, non lo so che cosa ci avrebbe fatto, ha fatto un po' di resistenza fino a che dice, no, vabbè, io i soldi ce l'ho qua, ce l'ho in mano. Io proprio ero un puzzato perché io volevo sto cazzo di 3DO, lo volevo portare a casa. E questo a un certo punto si ferma, prende lo scatolone, quello che c'aveva di fronte, strappa l'indirizzo di spedizione e mi fa, tiè. E io mi sono portato a casa sto 3DO, solo che non volevo far vedere ai miei che avevo comprato l'ennesima stronzata, no? Cioè, per loro era una stronzata, per me era una cosa fantastica. E allora praticamente che feci? Arrivai a casa, cioè nel senso nel mio palazzo, con sto scatolone, andai dal portiere, nel bugigattolo del portiere, gli dissi, guarda, che me lo vuoi tenere un attimo qua, che dice, però non mi fa problemi con i tuoi, io non voglio sapere niente, no tu tieni sta cosa qua. E praticamente invece andando a casa che ho fatto? Sono andato al negozio di via Magna Grecia. Ah, ciao, come stai? Io col dito come uno sborone proprio, cioè ho puntato il dito sul FIFA del 3DO e lui mi guarda, fa, ma che davvero? Ma dice, e com'è? Che ne so, devo ancora aprire, no? E quindi mi comprai sto FIFA del 3DO, andai a casa, montai sto 3DO al televisore che c'ho in salotto, lo stereo, l'ho collegato allo stereo, cioè tu accendi tutto quanto, parte il disco con l'introduzione in full motion video a tutto schermo, anche se a 15 frame al secondo, perché ovviamente io non c'avevo la scheda MPEG per vedere ovviamente i filmati fatti meglio da quel punto di vista. Però la cosa che apparve all'inizio, la scritta Dolby Surround con tutte le casse che vibravano, tutto i bassi da paura, e poi tutto incomincia a roteare, no? EA Sport, if it's in the game, it's in the game, perché una volta lo slogan era più lungo di quello che, e tutto lo stadio che rotava sta cosa, wow, i suoni che venivano da tutte le parti, dicevo, ma che cosa sto vedendo? Era una cosa, ragazzi, stavamo vedendo il futuro, cioè una cosa che era completamente fuori scala da quel punto di vista. Ed è stato bello perché è stata un'emozione incredibile giocare a quel gioco che era veramente in 3D, a parte i personaggi, cioè nel senso i giocatori che erano in, insomma, erano in bitmap, però in, in tante sfaccettature di rotazione praticamente, no? Quindi tutto sommato, quando tu facevi proprio la rotazione dell'inquadratura, te ne rendevi conto, insomma, che non era proprio totalmente in 3D, però era una figata, cioè era una figata, insomma. Infatti ci volle poi la versione per PlayStation 1, proprio la versione completamente in 3D. È stata, 3DO è stata un grande sogno da un certo punto di vista, perché era un modello che poteva, se fosse stato supportato, funzionare. Era un bel hardware che comunque da lì non è stato tanto supportato, probabilmente anche dal punto di vista economico ha avuto tantissime difficoltà. Sarebbero uscite da lì a poco tecnologie, insomma, che l'avrebbero comunque scavalcato, però in quel momento, in quell'isola che si era costruita, 3DO era un qualcosa di veramente incredibile. E il problema è che non c'erano poi tanti giochi, insomma, e quei giochi che c'erano, insomma, alla fine non erano nient'altro che porting. Io ad esempio mi ero comprato Flashback, perché Flashback aveva praticamente tutte le grafiche e, diciamo, le introduzioni, no? Le animazioni, tutte le cutscene, diciamo così, del gioco, soltanto che erano fatte in CGI, no? Quindi erano rifatte. Io pensavo che fosse il 3DO che faceva quella roba lì, no? Nel senso, un po' ci capivo. Poi in realtà mi rendevo conto che erano dei filmati, però era anche figa come idea, no? Vedere l'introduzione che tu vedevi con la grafica vettoriale dell'Amiga e vederle in quell'altra maniera lì, perché dava proprio un senso di step over, proprio di essere andati avanti proprio da quel punto di vista, anche se poi dopo riguardando indietro nel tempo, insomma, la grafica vettoriale che usava Delfin è stata una grande innovazione anche quella, è stata una gran figata perché permetteva di fare tante animazioni risparmiando tantissimo spazio, perché ovviamente la grafica non era in bitmap, non era disegnata pixel per pixel come capitava agli sprite all'epoca normalmente. E che niente, questo è stato, insomma, il destino del 3DO, che è durato poco. Poi io purtroppo ho questa cosa che quando le cose mi capivo che non c'avevano un futuro, un po' lasciavo perdere, non l'ho manco mai rivenduta bene. Credo di averla venduta a un mio amico, se non addirittura mezza regalata, non mi ricordo, ma io su questa cosa non sono mai stato capace. Io sento gente che si è conservata tutto e io non mi sono conservato niente, o gente che è capace di rivendersi le cose eppure lì io non niente. Io è una cosa che non ce l'avevo proprio nell'indole, però non riuscivo a capire proprio come facesse la gente, e li ammiravo perché la gente riusciva a vendere le cose, io mezze le regalavo praticamente, diceva vabbè dai, dammi qualcosa. Io sono Simone Ortolani degli Scimmioni Non Leggono Nietzsche e tu stai ascoltando Runtime Radio. La manca poco e quindi taglio anche questa canzone, perché in realtà vorrei raccontarvi un ultimo aneddoto. Come giustamente dice Vincent Valentine, che salutiamo per gioco a Via degli Scipioni, forse ci ho lasciato diversi stipendi anche io, devo dire la verità, ma oltre a essere un classico negozio di videogiochi, per gioco poi fece anche uno step in avanti affittando sempre lì, insomma, vicino al negozio, anche un altro negozio, e ci aveva fatto praticamente la possibilità di giocare in LAN ai videogiochi, perché all'epoca per giocare multiplayer, cioè praticamente si giocava a Doom, Quake, tutti questi giochi qua, ma si giocava in LAN, quindi se tu lo volevi fare con i tuoi amici dovevi portare il tuo computer a casa da un amico, quindi 3-4 computer tutti messi lì in parallelo, e praticamente si giocava ognuno per cazzi suoi. E questa cosa di per gioco invece spezzava, diciamo, questa difficoltà che insomma tanti potevano avere, ovviamente, per andare a giocare o portarsi il computer dietro e tutto quello che comportava, non solo la fatica ma anche il rischio che comunque magari lo danneggiavi e via dicendo. Invece andavi lì e giocavi in LAN pagando ovviamente un X periodo di tempo e giocavi con i tuoi amici e le botte ragazzi, le botte che si sprecavano. Comunque il racconto che vi volevo che vi volevo fare è relativo al primo Pentium 60, però mi sa che mi toccherà farlo in un'altra puntata, perché in effetti siamo andati veramente belli oltre, insomma, con l'episodio. Questo racconto del Pentium 60 è sicuramente un racconto articolato, riguarda 6 milioni di lire che mi sono arrivate extra intorno al 93-94 e come l'ho spese nell'arco di una giornata facendo delle cose veramente folli. Quindi, insomma, vabbè ragazzi, questo è un racconto però un po' più articolato, quindi ci farò proprio una puntata dedicata e ne sentirete delle belle, perché io facevo queste cose qua, cioè io carta vince carta perde, vedevo una cosa, mi piaceva il trip, lo dovevo comprare a tutti i costi e lo facevo in qualche maniera, e questa è una cosa incredibile, forse è che io comunque ci riuscivo sempre a ottenere le cose che volevo, e questa è una cosa maruvagia, molto maruvagia. Detto questo, ragazzi, quando finisce il grande reset inizia, diciamo, il preludio del fine settimana, cioè siamo lì per arrivare al fine settimana, che inizierà ufficialmente domani, ma anche questa sera successivamente dall'uscita dell'ufficio, come si fa nel Regno Unito, usciti il venerdì sera ci si va a sbragare in qualche maniera. Noi questa sera non credo che ci sbragheremo, non ci dovrebbe essere runtime by night, a meno che non ci so notizie, insomma, diverse. C'è o sabato mattina o domenica mattina l'appuntamento con Disordinati Informati insieme a Michela, però poi questo ve lo comunichiamo bene in giornata quale dei due giorni ovviamente ci sarà. Per il resto spero che questa puntata vi abbia intrattenuto dopo la puntata un po' pesante della scorsa settimana, ma non per compensare, anche per dare un po' di equilibrio, diciamo, a questo periodo così particolare e drammatico. Ho cercato di raccontarvi, diciamo, quello che è stato un mio percorso da un certo punto di vista, che è quello dei videogiochi, di quanti soldi abbiamo speso in quel periodo per la tecnologia proprio in una fase storica che cambiava nell'arco de pochissimo tempo. Come dicevamo, usciva Wing Commander 2 e dovevi cambiare computer, usciva Wing Commander 3 e dovevi cambiare computer, usciva Frontier, dovevi cambiare computer, e non c'era niente da fare, era così, una cosa incredibile, anche se all'epoca bastava cambiare il processore, se non ricordo male, a volte facevi aggiornavi un pochino, quindi insomma, fino a che poi ovviamente quell'aggiornamento non lo potevi più fare, quindi dal 386 passavi al 486 SX, al 386 4DX, ovviamente poi al Pentium, come ho detto, il Pentium 60. Vi racconterò questa storia nelle prossime puntate, perché io sono stato sicuramente il primo Pentium 60 del negozio del quale mi sono fornito, ma quanto sapevo, detta da loro, uno dei primissimi Pentium 60 a Roma, e insomma sapete che ovviamente quando io compro una cosa qualche problema ci doveva essere, perché sapete che il Pentium 60 era uno dei processori, anzi il processore fallato che sbagliava le informazioni in virgola mobile ogni X istruzioni, insomma, però vabbè, era... Noi forse non ce ne saremmo mai accorti se non fosse per il fatto che magari usando 3D Studio Max, a un certo punto progettando un ponte, departiva un vettore così a casaccio. Grazie per esserci stati e buona giornata con tutto quello che verrà su Runtime Radio. Vi ricordo che è uscito Snap Architettura Imperfetta e che durante l'arco della giornata potete ascoltare qui su runtimeradio.it tutti i nostri podcast storici e meno storici, per farvi compagnia come sempre 24 ore su 24 qui su Runtime Radio. Ciao e buona giornata!